nuovo in diretta Radio Città Fujiko Breakfast Club per altri suoni, presentazione di un lavoro che mi è arrivato in redazione il venerdì appena trascorso e ovviamente l'ho portato negli ascolti tra sabato e domenica andando a vivere il consueto weekend polesano. Ecco, tra il territorio, le note che sono arrivate da questo giovane musicista, bassista per la formazione In Sita, porta un'attenzione esattamente alla microsensazione che diventa estensione totale per le emozioni che può dare un aspetto d'ambiente, un aspetto dove, legato a un minimalismo di cui abbiamo parlato, certamente di ispirazione più che di espressione, ha però la capacità di regalare e donare visioni che vanno oltre le note, oltre a quell'aspetto immediato, con una ricerca che viene portata, come ho detto, nonostante la giovane età, da una formazione che mi soffermerei anche sul trombonista, che non è certo un vecchio trombone, tutt'altro, anzi è un ragazzo molto dotato di talento, ma Giampiero Malfatto, leggo, che non conoscevo peraltro, anzi già mando il brano per dare un'idea di ascolto, che è nell'interplay di una formazione eterogenea ma allo stesso tempo molto legata non solo per le note ma anche per le sensazioni, qualcosa che mi ha piacevolmente dato una colonna sonora a sorpresa. Ho fatto anche ascoltare questo disco ed è stato accolto anche da altri appassionati in maniera assolutamente positiva. Ho contattato nel weekend il frontman della formazione, Leonardo Barbierato, giusto appunto per saperne di più e per chiedere come è nato questo lavoro, come ha avuto queste visioni e queste attenzioni prese da Pattern for Transcendence e tra l'altro anche una copertina di cui vi darò descrizione, che è veramente molto particolare. L'idea del progetto nasce nel 2019-2020. Ma anzi, in realtà anche da un po' prima, appunto mi iniziavo già a interrogare un po' sulle connessioni che ci sono, no, tra psicologia sociale e ambientale, l'improvvisazione, come artisti come possiamo veicolare dei potenziali cambiamenti, no, nella società. Però appunto proprio per quanto riguarda questo album nello specifico, è iniziato in realtà con alcune foto che avevo scattato in varie parti, insomma, geograficamente disparate. Da lì ho iniziato a comporre alcuni brani e alcune strutture improvvisative, che appunto poi ho proposto anche agli altri musicisti e ci abbiamo lavorato poi insieme, però questo più recentemente, nel corso dell'anno scorso. Le vostre sonorità, tu hai parlato di improvvisazione, ma vi è anche una parte molto narrata, molto scritta. Sì, un po', diciamo che la parte complicata è stata trovare, cioè più o meno cercare di trovare un equilibrio tra la parte scritta e la libertà improvvisativa. Sì, ci sono alcuni temi e alcune, insomma, anche proprio armonie abbastanza rigide, che però vengono poi, come dire, trascese nel corso dell'improvvisazione, che diventa a tratti totalmente libera. Anzi, diciamo che a quel punto abbandoniamo proprio le progressioni armoniche, ci concentriamo più su grafici e meccanismi. Diciamo che proprio durante l'improvvisazione si cerca proprio il collegamento con il meccanismo ecosistemico che, certo, è insito nella foto, no? Quindi sì, appunto, forse lì la parte più sperimentale, che poi vorrei anche riprendere. È una reiterazione ritmica al piano che mi ha portato al pensiero del minimalismo di Steve Reich, una progressione di emozioni e una progressione di suoni, un'attenzione che ha voluto lasciare tra le righe, o meglio dire tra le note, anche se la copertina lascia immaginare in maniera evidente tutto ciò, vi è un traliccio di distribuzione elettrica, i fili diventano pentagramma, vi sono uccelli come note e numeri in sequenza, in un disegno veramente molto molto esplicito per quanto riguarda la sensazione che viene trasmessa. Avete ben sentito il racconto che vi è importato dalla parte dedicata al trombone, grazie a Giampiero Malfatto, oltre che al trombone al flauto, per la formazione e il progetto Insita di Leonardo Barbierato, per musica.org, alla quale diamo attenzione, etichetta di musica indipendente. In questo caso l'attenzione viene portata all'ambiente, all'ecologia, l'improvvisazione che diventa certo legata a un grande gusto e a un'emozione sempre crescente, come una passeggiata in luoghi più disparati, come ha detto nell'intervista Leonardo, e questo è evidente in quanto non solo la qualità musicale ma anche la qualità visiva di queste note. E a proposito di ispirazioni, sentiamo la seconda breve parte di conversazione con Leonardo Barbierato, che ringrazio per aver condiviso questa presentazione e per il lavoro arrivato a Radio Città Fujiko. Sì, sono in realtà, vabbè, dalla parte del free jazz a tratti, però anche la musica progress è sicuramente stato, insomma, una buona influenza, come anche il minimalismo americano, da Philip Glass, Steve Reich per esempio. Invece jazzistico contemporaneo, anche in alcuni lavori di Don McCaslin, proprio come sonorità quasi rock, un po' elettroniche, sono stati sicuramente di ispirazione come sound in generale, più che come concetto. Un lavoro che, nonostante la vostra giovane età, immagino così abbia avuto già buon auspicio per una maturità. Io ti ringrazio. Grazie. Tantissimo. Grazie mille. Alcuni brani dal tuo lavoro che si chiama Patterns for Transcendence, Insita, musica.org, la label di musica indipendente che seguiamo con grande attenzione, che ci regala un'altra perla. Grazie intanto. Grazie. Ok. Buona giornata. Buona giornata. Molto visivo, è un disco molto maturo, molto visivo, nello stesso tempo dolce. Certo, non lesino in questi aggettivi, anche se può apparire una critica immediata, ma posso assicurare che abbinarlo a determinate visioni vengono ulteriormente, con un discorso di incisione ai nostri occhi, ancor di più profonde, ancor più di introspezione. La formazione Insita, Giampiero Malfatto al trombone e al flauto, Lorenzo Morra al piano e al synth, Riccardo Marchese alla batteria, il frontman e alla composizione, Leonardo Barbierato al basso. detto, è un disco che mi ha entusiasmato molto. Quindi, dopo questa breve presentazione per Altri Suoni di oggi, martedì 14 novembre, ancora qualche nota e poi è il momento del Move to Groove. Anche oggi imprevedibile, ci sarà anche qualche nota di jazz live con il Bologna Jazz Festival. E come? Beh, grazie all'organo Hammond, no? E questo che attinenze avrà? Lo scopriremo tra poco al Move to Groove di oggi. Buon ascolto, non cambiate frequenza, Radio Città Fujiko.